fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi, per raccontare, questo è il motto della nostra radio, la frase che ci accompagna sempre, il motivo per cui questo spazio è nato, per dare spazio ai festeggiati appunto di raccontare la loro vita, di fare quattro chiacchiere insieme a noi, ma soprattutto spiegare il perché di un evento, una festa, un qualcosa da ricordare. Abbiamo un'altra sposa che possiamo anche vedere inquadrata nelle nostre webcam notturne. Questo è un servizio nuovo che abbiamo impostato, quello della webcam, soprattutto per capire il grado di resistenza alla notte dei nostri ospiti, perché così c'è anche un controllo occhiaie, live check sul momento, sì, per vedere. Andiamo a nanna. No, per vedere se noi che abbiamo passato i 20 abbiamo ancora le energie per resistere così a lungo. E è anche una prova visiva per dire ai ventenni: raga, guardate che non ce la fate, perché cioè, dovete ancora farne di strada. Esatto, dovete farne di strada. Ma attenzione, perché stiamo un attimino deviando dall'argomento principale, che è il matrimonio futuro, ovviamente, di questa nostra futura altrettanto sposa qui alla mia sinistra, che andiamo a presentare. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Laura. Laura, benvenuta. Da dove vieni? Vengo da Milano. Dopo c'è stato un momento di emozione dicendo il tuo nome, è quasi svenuta sul bancone. Non so come ti emoziona tanto il tuo nome. Diciamo, anche perché visto, no, diciamo, visto che siamo in radio, nessuno l'ha mai detto nelle canzoni italiane, è il tuo nome, quindi è proprio mai usato, non è inflazionato musicalmente, esatto, parlando. Esatto. C'è una canzone magari che ti lega, legata anche al tuo nome? Quella Laura non c'è di Neck. Ah, Laura non c'è di Neck, che è l'unica negativa di tutte, tra l'altro. Bene, ma le altre non ce le presenti. Allora, c'è quella di Vasco. Laura aspetta un figlio per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare. Niente. Ah, davvero? Non so parlare. Ah, no? No, no, niente. Lei la sa, lei è forte. Brava Alice. Brava Alice, anche Alice non è che se la passi benissimo in termini di canzone. Guarda i gatti, è ancora da 20 anni che guarda i gatti, non ha ancora smesso. Sì, poi c'è purtroppo quel marchio di fabbrica che non. Cioè, lei guarda i gatti a vita, e Harry Potter fa le magie a vita, sempre quella cosa. Come si chiama? Kevin sta ancora cercando aerei in giro per il mondo, si perde dappertutto. No, no, ci sono così. Ma anche qui continuiamo a distrarre, perché dobbiamo parlare del motivo della festa della nostra Laura. Intanto, da dove vieni? Da Milano. Da Milano, tutto bene qui? No, ho guardato se sveniva ancora, invece no, Milano non fa lo stesso effetto, quindi è proprio il nome Laura che le dà un po' di mancamenti. E ok, e cosa festeggi qui con noi, anche se purtroppo mi è già scappato prima? L'addio al nubilato, le mie amiche. Con le tue amiche, cioè nel senso che sposi tutte loro? No. Ah, ok, scusa, è un moto di compagnia, cioè in compagnia delle mie amiche. Esatto. Pensavo fosse un matrimonio multiplo, tra l'altro il primo della storia. No. Che non so se siete a conoscenza di una notizia uscita qualche mese fa, che una ha pensato bene di sposare se stessa. Sì. Ah, ok, l'avete letta? Sì, visto che il mondo sta andando nelle parti delle strade. Anche dalle nostre parti. Davvero? Era milanese. Brianzona. Sì. Bello, bello. Infatti dicevo, visto che il mondo sta dilagando nella stranezza. Può essere. Dicevo, sta dilagando nella stranezza, potevate essere il primo matrimonio multiplo della storia, chi lo sa. Invece no, tradizionale ancora. Sì. Perfetto. Molto tradizionale. Chi sarà il classico? Chi sarà il fortunato? Luca. Luca da? Da Cuneo. Luca da Cuneo, è importante dirlo? C'è stato un qui pro quo sulla provenienza di Luca. Ho detto che veniva da Milano, invece viene. Ah, Luca da Milano, vabbè, ci sta, perché andate a vivere insieme o già vivete insieme? Viviamo già insieme. Ok, quindi a dove? A Cuneo. A Milano. A Milano, vedi, per quello, perché ormai esatto, è Luca da Milano. Che ha avuto questo scompenso. Esatto. Sì, esatto. E poi anche lì, cioè tu immaginati, che ne so, che chiama chi vuole essere milionario. Chi ha il telefono? Luca da Cuneo. No, Luca da Milano. Cioè, nel senso. È più incisivo, no? È come Mario Rossi, cioè Mario non si può non chiamare Rossi di cognome, è di dovere. E no, dicevo, raccontaci anche un po' come vi siete conosciuti, insomma, come è nato il vostro amore. Ci siamo conosciuti al mare, in spiaggia. Davvero? 15 anni fa. Quanti? 15 anni fa. Eravamo amici nella stessa compagnia. No, il solito amico di amico che presenta. No, non c'è stata presentazione o un... non me lo ricordo. Vuoi venire a giocare a palla con me? Ah, è vero. No, perché io sto facendo una sorta di sondaggio sociale interno. E se ci fosse una classifica dei motivi per cui io mi sposo con, il primo è un'amica in comune che vi ha fatti conoscere. Quindi no, non sei nella lista. Non mi sembra, forse i gemelli, però non mi sembra. I gemelli. I gemelli escono dei gemelli. Cioè, sì, e i gemelli li chiamiamo due che sono gemelli. Okay. Vengono chiamati gemelli. Saluta Marco e Matteo, si mangia, ascoltate. Ciao ragazzi. Tra l'altro, vorrei dire una compagnia di persone con nomi originalissimi, Cioè, secondo me i genitori di tutti i vostri genitori si sono trovati a cena una sera e hanno detto: ma sì, facciamo un po' di casino, troviamo dei nomi forti, tosti. Chi ce ne ha uno? Che ce ne ho? Io, dici? Luca, sì. Luca, mi senti che roba? No, Marco, Matteo, Luca e Laura. Lucia, piacere. È un piacere conoscerti. Comunque volevo dirti, Luca, Matteo, Marco mancava giocato, Giovanni faceva sì, squadre vaccine. Esatto, facciamo un bel racconto. Per essere anche biblici. Ma ci sarà. Beh, chissà che il buon Dio, a proposito, vi regali un figlio. C'è il nome. Subito. C'è il nome. Bello. Quindi anche allora, tornando alla spiaggia. No, sì. No, non ti ricordi come funziona, quindi cosa ti chiedo a fare, come è andata? Non te lo ricordi? No, mi ricordo la presentazione. Quindi i gemelli sono stati a presentarvi? Sì, no, mi ricordo lui, la presentazione di lui, non mi ricordo chi me l'ha presentato. Ah, cosa ti ha fatto? Un PowerPoint? La presentazione sembra che si sia messo lì in posa. Mi ricordo quando ci siamo stretti la mano. No, ok, come si è preso, cioè, nel senso, cosa ti ha detto? Luca. No, però magari allora, cioè, per sembrava una domanda imbecille, ma non era una domanda imbecille, nel senso, volevo capire se era già un po' provolone o è andato dritto su semplice piacere Luca e tu dici vabbè, questo non ci sta provando. Beh, un pochettino avevi già annusato che stava provando. Beh, racconta bene, che però 10 anni sono passati. Vai, racconta. No, poi sono passati 10 anni prima che comunque eravamo amici fuori. Prima cioè lui gli è morto dietro per 10 anni. Però finalmente dopo 10 anni bene. Non voglio sapere quando dovete scegliere il tavolo della cucina. È stato dura l'arredamento della casa. Madonna, siete partiti nell'85 ad arredare casa per finirla quest'anno. Però è venuta bene. Però per meno male. Adesso avete scelto pezzo per pezzo. Mancano ancora i quadri. Mancano ancora i quadri, vabbè, quelli diciamo che non è che siano fondamentalissimi, dai, ci può stare. Ma sai, tutte le pareti bianche, un po' triste. Tra l'altro volevo dirti. Qualcuno vuole regalarmi un quadro. Volevo dirti che ci sta questo annuncio. No. Dicevo, volevo dirti nel frattempo che eravamo un po' state avvertite di questa cosa perché ci hanno chiamato un paio di aziende d'arredamento e ho detto guarda, stasera viene Laura, sappi che la conosciamo già, cioè tu ogni volta che viene ormai ancora, basta, ti prego, ti conoscono per nome quasi, no? No, conoscono Luca perché Luca è più preciso. È più preciso, un po' sì, più puntiglioso. Hai visto? Beh, dai, bene, vuol dire che ci tenete, ci mancherebbe. Allora, stiamo anche tralasciando una parte fondamentale di questa serata che sono le tue accompagnatrici. Mi farebbe piacere che tu facessi un giro di presentazioni così ci dici anche chi è qui con te. Dai. Allora, qua a mio fianco abbiamo Federica, la mia testimone. Ciao a tutti! Poi abbiamo Elena. E tra l'altro, perdonami, interrompo, organizzatrice della serata, quindi il nostro virtuale. Tutte hanno organizzato, anche la Cri tantissimo. Anche la Cri tantissimo. Infatti c'è la Cri, la Giulia, la Renata, Alice, Adele, sì, Elena l'ho detta, e Marina. Bene. Ciao. Tra l'altro io mi sono già innamorato di Marina nel frattempo. Una ragazza buona ma carina. Citazioni così. Avete dei nomi troppo ispiratori. Quindi, sempre capito? Anche nomi originalissimi. No, beh, ma ci sta. Bene, e tutte amiche? Qualcuno che ha altri ruoli nella tua vita? No, sono tutte amiche. Tutte amiche? No, ogni tanto c'è qualche collega, qualche cugina, qualche gemello. Tutte amiche, molto bene. Ok, e ultima postilla della chiacchierata, perché è interessante, mi faceva piacere che tu lo dicessi, il tuo lavoro, di cui abbiamo parlato prima, che è molto molto particolare e soprattutto io volevo capire, vabbè, te la faccio dopo la domanda, da dove arriva, cioè se hai sempre detto voglio fare quel lavoro qua oppure se è un po' nato strada facendo. Allora, io faccio l'audioprotesista e questa passione è nata perché mio padre non... Aspetta, l'audioprotesista è per chi ne capisce di audioprotesismo. Per noi che mangiamo ancora la pasta in bianco scondita, spiega? Fai gli esami dell'udito per, e aiuti le persone che non ci sentono bene, li metti gli apparecchi e fai tutto il percorso di riabilitazione uditiva. No, bello, bello, interessante. Ok, vai, e dicevi la passione? Semplici. No, infatti va benissimo, adesso è chiaro anche per chiunque. La passione è nata perché mio padre non ci sente bene. Ah però, mm-hmm. Davvero? Sì, purtroppo ha fatto l'incidente, un trauma acustico, quindi... Ma e hai avuto modo di aiutarlo o hai conosciuto persone che l'hanno aiutato e ti sei appassionata al loro lavoro? Ho conosciuto persone che l'hanno aiutato e quindi da lì ho scoperto questo lavoro e quindi mi sono informata alla facoltà. Ah, quindi c'è una facoltà specifica? Sì, la facoltà che non... di medicina. Ah, che è un ramo della medicina. Esatto. Fantastico, fantastico. Volevo capire se... Beh sì, cioè, è solo la sordità alla fine come malattia o c'è anche qualcos'altro che possiamo beccarci dal punto di vista uditivo? No, purtroppo... Sì, c'è solo la sordità alla fine, no? Beh no, purtroppo nell'orecchio c'è anche l'equilibrio, quindi tanti problemi... Ah, è vero, la laberintite e vertigini. Le patologie pesanti... La malattia di Meniere, insomma, adesso vabbè, non sto no, a studiare, vabbè, chiaro. Però... No, però nel senso che è facile dire, ah beh, non ci sento. No, c'è anche qualcosina di mezzo. Più grave, sì. Ok, e il tuo lavoro consiste nel, quindi, cioè, praticamente? Fare gli esami dell'udito, fare una diagnosi, mettere l'apparecchio acustico se bisogna metterlo, se si può mettere, se è la strada giusta e seguirlo negli anni. Quindi tu, cioè nel senso, prendi un paziente e continui a seguirlo, cioè non è che fai solo l'esame e poi lo passi a qualcun altro, ok? Fino in... bello. E adesso l'ultima, perché a me interessa sta cosa, la riabilitazione uditiva in cosa consiste? Consiste sempre nel mettere nell'apparecchio acustico e fare una serie di adattamenti e lentamente, perché purtroppo quando tu perdi l'udito non solo non senti, però tutta una parte del cervello si atrofizza. Sì, ok. E tu la devi lentamente riabilitare. Ok. Se lo fai tutto subito. Ah, ok, quindi deve essere una cosa piccole basse. Ecco perché lo subiamo. Più o meno tempi? Anni. Ci parla di anni? Negli anni, perché poi vabbè è un apparecchio acustico, quindi va seguito, però comunque dura un 6 mesi. Sei mesi. Bene. Beh, vedi, interessante. Scopriamo anche dei mondi nuovi, dei mondi diversi, e ci fa sempre anche piacere farlo per capire qualcosa di più e parlare anche di qualcosa che evidentemente molti non conoscono. Allora, grazie mille a voi. Tu vuoi aggiungere ancora qualcosa, Laura? No, niente, io ringrazio ancora tutte quante. Sì, farei partire una fantastica canzone di Laura Pausini. Ah, è così, se scelta. Se c'è, vorrei Se non te. Allora domani mattina vengo a casa tua a fare colazione, voglio due brioche. No, adesso vediamo, non allora, lo so. Vediamo se c'è Laura Pausini. Andiamo intanto alla L, che è un buon modo di cominciare a cercare Laura. C'è solo queste qui. Allora, queste 5. Io c'ero è bella, la mia banda non ho mai smesso. Adesso fidele se siamo un po'. Io faccio fuori tema. Io c'ero. No, questa io scusa. C'ero più che bella. Perché adesso si staccheranno. Senti, no, ma infatti posso farne sentire solo un pezzettino proprio il così. Va bene. Senti, tra l'altro sabato notte inoltrato, tutti stanno. Cioè, tra l'altro vorrei farvi sentire. Ma guardate che questa è una canzone strong di Laura, eh? Stronghissima. Vorrei farvi sentire quello che succede in pista, tra l'altro. Vabbè, diciamo che anche in pista non è che se la passino benissimo. Sì. Torniamo a Laura Pausini, dicevo. Perché questa è. Sentiamo? Che bello! È già svenuta un'altra volta, la Laura. Ci sta staccando tutti dalla radio. Sono, tra l'altro, ci informa Iso Radio, ci sono stati 25 incidenti nel frattempo. Incontrollabile. Incredibile sta ragazza. L'ha trasformata. Posso. Sì, però dai, è bella rimasta. È bella. È un peccato perché insomma è proprio il momento più bello questo, e quindi mi sembrava giusto far sentire proprio il cuore, l'anima, esatto, l'energia di questa canzone. E tra l'altro ci ha appena chiamato l'associazione Carro Attrezzi, che ti ringrazia perché gli hai dato da lavorare più o meno per tutta notte grazie a questi 10 secondi, e quindi ti ringraziano. Grazie a te. No, non a me, devi ringraziare, cioè, grazie. Sì, ringraziano loro. Ok, allora, grazie mille a voi. Sì, sì, arriviamo, ma perché loro non pagano le bollette, quindi è così. Grazie a voi, grazie mille Laura, grazie per aver giocato e scherzato con noi, soprattutto grazie alle sue amiche per avercela portata qui. Sì. Ciao ragazze! Ciao.